as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Eccoci qua, ben ritrovati ad Il Pane e le Rose. Ogni tanto purtroppo sparisco, varie esigenze, o sono sindacale, questa volta abbiamo avuto le elezioni, sono stato un po' preso da questa tornata elettorale che mi ha rubato del tempo e non mi ha permesso di fare la puntata martedì. Avrete ascoltato sicuramente una replica, le nostre repliche sono bellissime. Vi ricordo a tutti che potete trovare tutte le nostre puntate sulla pagina Facebook Il Pane e le Rose, c'è il link podcast, o nella mia pagina privata di Facebook trovate il post delle varie puntate con l'indirizzo, e lì dal pagina podcast Il Pane e le Rose potete trovare tutte le puntate, almeno le ultime 30-40 puntate. Poi siccome non lo pago, la pagina podcast dopo 50 puntate le devo rimettere. Detto questo, oggi parliamo di un argomento che a noi sta molto a cuore. Eh sì, parleremo purtroppo, non siamo tranquilli ancora, sulla questione della Breda Merlini Bus. Tutti quanti conoscete, azienda storica, produttrice di autobus bellissimi, autobus i migliori che vengono prodotti in tutto il mondo. Un'industria che è stata salvata più volte dalla lotta dei lavoratori. Voglio ricordare a tutti che lo Stato, i privati, tutti hanno provato di chiudere questo stabilimento storico che produce autobus. I lavoratori hanno resistito e stanno ancora resistendo. E ultimamente, avete letto sui giornali, ci sono state delle mobilitazioni, degli scioperi, perché la paura è che adesso c'è una parte Finmeccanica, una parte Invitalia, insomma spiegherà Muzzicato, che abbiamo intervistato in un'iniziativa che adesso spiegheremo, delegato della FIOM, della Breda Merlini. Cioè il rischio era che venissero venduti a qualcuno che in realtà voglia di costruire autobus non ne aveva, o comunque voglia veramente di fare gli autobus che servono a questo paese non aveva nessuna voglia, insomma chi ne è del mestiere. E i lavoratori capiscono a volo quando c'è puzza di, no? I cavalieri bianchi, così che li chiamano, quelli che comprano le aziende poi per chiuderle e prendono in giro i lavoratori, ne abbiamo visti parecchi. Purtroppo anche la GKN ha visto una situazione del genere con Borromeo. Pare che in Breda Merlini sia stata scongiurata questa opzione, ma comunque un piano industriale vero purtroppo non c'è. E abbiamo ascoltato l'intervento e abbiamo registrato con la sua autorizzazione l'intervento di Muzzicato in questa iniziativa bellissima a cui io ho partecipato un po' di tempo fa sulla transizione ecologica, la mattina e il pomeriggio sul microclima. Io, sapete, sono anche un delegato sindacale della FIOM, RLS, spesso vado in questa iniziativa e sfrutto l'occasione per ascoltare, intervistare, registrare interventi interessanti. In questo caso l'intervento di Muzzicato è stato molto molto interessante, soprattutto poi nelle conclusioni parleremo anche di qualcosa che lui fa riferimento, di questo progetto che è stato organizzato attraverso dei ricercatori e anche la FIOM insieme ai compagni della Breda Merlini sul trasporto in Italia, di come la transizione ecologica possa essere qualcosa di innovativo, ecologico, ma anche portare posti di lavoro e insomma gioia ai lavoratori, ecco. E non sempre c'è questo spauracchio, c'è questa paura che la transizione ecologica possa chiudere le fabbriche, chiudere i posti di lavoro. Questo succederà se non ci sono alternative intelligenti costruite dal basso. Poi ne parleremo nelle conclusioni. Adesso un pezzo magnifico della nuova linea musicale del Pane e le Rose, che poi comunque potete sempre trovare i video, tutti i riferimenti nella pagina podcast, qui se uno è curiosito che musica è, viene a cercarci nella pagina del Pane e le Rose, e così c'è un sacco di notizie e novità. Va bene, ascoltiamo questo pezzo musicale stupendo, questa cover, e poi ascoltiamo Muzzicato e ci sentiamo per le conclusioni alla fine. Ciao! exactly what to do. A synonym to fool him, she couldn't have made a worse move. She sent him center letters, and he received them with a strange delight, just like his wife, but how she was before the tears, and how she was before the years flew by, and how she was when she was beautiful. She signed the letters, all yours, babushka, babushka, babushka, yeah, yeah. All yours, babushka, babushka, babushka, yeah, yeah. She wanted to take it further, so she arranged a place to go, to see if he would fall for her incognito. And when he laid eyes on her, he had the feeling they had met before. Uncanny how she reminds him of his little lady. Capacity to give him all he needs, just like his wife before she freezed on him, just like his wife when she was beautiful. He shouted out, I'm all yours, babushka, babushka, babushka, yeah, yeah. All yours, babushka, babushka, babushka, yeah, yeah. Babushka, babushka, babushka, yeah, yeah. Babushka, babushka, babushka, yeah, yeah. Intanto volevo ringraziare per lo sciopero di ieri, molto ben riuscito, perché un'intera collettività, a partire dai Fridays for Future, che avevamo già incontrato sia anche come CGL, perché effettivamente ricordo che via Farini, se non ricordo male, Piazza Cavour, proprio avevamo avuto la fortuna e l'onore di fare un intervento legandolo al loro concetto di giustizia climatica e al nostro concetto di essere lavoratori, lavoratrici e lavoratori di un'azienda che produce un bene collettivo. Quindi ringrazio Fridays for Future, ringrazio per quello che è stato detto anche oggi, quello che è stato detto ieri, veramente apprezzato, non sono ringraziamenti così giusto per fare. Poi volevo sottolineare la relazione di Gianluca. La relazione di Gianluca Sala, abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo, ringrazio Mario, tutta la segreteria, Pasquale, tutta la FIOM Bologna, CGL Bologna, perché ha fatto una relazione che secondo me è meravigliosa, perché i dati sono molto ben descritti, quindi tutto vero quello che ha scritto. Io partirei da un concetto, quello che è appena stato detto, quindi tutto condiviso, condivisibile, però ricorda a tutti che Industria Italiana Autobus è un'azienda che produce autobus. Quindi un bene per la collettività ed è un bene che per il trasporto pubblico locale. Per quanto riguarda noi, FIOM CGL Bologna, delegati ovviamente, lavoratrici e lavoratori, un bene per il pubblico va gestito dal pubblico. Guardate, noi in sede di commissione consigliare, c'era Mario in teleconferenza, l'amministratore delegato, quello attuale di Industria Italiana Autobus, aveva detto, dato che siamo composti da due stabilimenti, quindi una Bologna di 159 persone Abbiamo per fortuna chiuso un accordo su 9 assunzioni più un responsabile, quindi vedremo entro giugno, dovrebbero entrare più di 4-5, quindi capite la difficoltà in una situazione del genere di riuscire con l'appoggio della FIOM CGIL Bologna e credo comunque anche il lavoro dei delegati tutti, per fortuna nostra, fatemelo dire, siamo tra delegati FIOM CGIL, è uno di un altro schieramento, però credo che sia stato importante concludere un accordo su 9 assunzioni in un momento del genere veramente drammatico. Faccio un passo indietro. Noi è già da mesi, l'abbiamo detto anche in Camera del Lavoro a Milano, parliamo di transizione ecologica, giusta transizione ecologica, perché è vero che il motore endotermico prevedeva un tot di pezzi per chiamante della meccanica, biella, manovella, pistone, albero a cambio e quant'altro, albero di trasmissione, un motore elettrico. Adesso noi produciamo autobus elettrici. Guardate che la componentistica è, se dico, non ho fatto degli studi, ma è un ventesimo rispetto a quella del motore endotermico. C'è un motore elettrico, c'è un altro dispositivo che riscalda le batterie al litio, perché le batterie al litio devono avere un range di funzionamento, cioè non possono essere troppo al freddo, troppo al caldo, quindi c'è un altro dispositivo elettrico, è inutile che faccio il nome, tanto probabilmente è fatica da conoscere, riscalda le batterie quando c'è bisogno di riscaldarle, le raffredda quando c'è bisogno di essere raffreddate. Però noi, io torno al tema che, perché si diceva prima, però facciamo dei distinguo. Autobus prodotti in Polonia, lo diceva Gianluca, autobus prodotti in Turchia, vero, però vi ricordo che dal grafico, che tra l'altro la relazione ce l'ha data, è veramente molto ben fatta, ve lo assicuro, veramente molto ben fatta, vi ricordo che si acquistano veicoli provenienti dalla Germania e si acquistano veicoli provenienti dalla Francia, dove il costo del lavoro è senz'altro più alto rispetto a quello nostro, no? Perché noi poi abbiamo questa cosa delle due aziende che sono dislocate, una a Bologna e una a Flumeri, provincia di Avellino, con due, lo prevede il contratto, siamo un'azienda con due stabilimenti, 570 persone coinvolte, 1500 mediamente coinvolte tra familiari e quant'altro. Ma è chiaro che ad Avellino, per motivi anche sindacali, territori differenti, hanno buste paga notevolmente più basse delle nostre, non hanno una contrattazione di secondo livello come la nostra è infinita, ragazzi. Cioè noi non stiamo producendo, ma abbiamo premi produzione consolidate e quant'altro. Cioè prendiamo anche bene, abbiamo la visita medica quando è fuori sede, fuori Bologna di 2 ore, cioè la visita medica 2 ore prima, 2 ore dopo. Abbiamo una contrattazione di secondo livello veramente paragonabile a quelle delle aziende virtuose, vedi i delegati di quelle aziende virtuose, ma vi assicuro che la nostra è veramente infinita come contrattazione di secondo livello. Un'altra cosa che bisogna dire, Industria Italiana Autobus al momento, quindi ad oggi, perché poi arrivano notizie tutti i giorni anche di sera, è un SPA. All'interno di questo SPA, perché voglio arrivare al dunque, c'è Invitalia, che Mimmo Lisi, che ringrazio anche perché ha fatto un riferimento a noi, Invitalia è l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Imprese, come se fosse, passatemi il termine, un finanziatore. Ma Invitalia è partecipata, è di proprietà al 100% del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Quindi, la dico così, è a controllo statale, Invitalia è un finanziatore, ma è al 100% del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Leonardo, che è il socio che esce da Industria Italiana Autobus, che ha il 28,65% e cederà le proprie quote, quindi quel quasi 30%, è partecipata al 30% dallo stesso ministero, che è quello dell'economia e delle finanze. Quindi voi capite che Leonardo, che tra l'altro è un gruppo manifatturiero, ma opera nell'aerospazio, nella difesa, nella sicurezza, è uno dei 3 più grandi gruppi anche manifatturieri d'Europa, no? Ci risultano. Noi l'avevamo già avuto sotto Finmeccanica, cerco di arrivare al dunque, è lo Stato che si deve prendere l'impegno di far sì che questa azienda sia con un socio privato, perché noi abbiamo contesto, lo diciamo sempre con Marco, lo diciamo con Simone, lo diciamo con Pasquale, cioè lo diciamo sempre, sappiamo, abbiamo contesto del fatto che debba esserci all'interno dell'SPA un socio privato, questo sì, perché così è, perché vi faccio questo esempio, c'è Invitalia, partecipazione, anzi completamente dello Stato, del governo, tramite il Ministero. Leonardo è comunque al 30% pubblico, voi capite che il pubblico non può autofinanziarsi? Cioè, è facile, no? Non ci vuole tanto a capire, non perché voi non siate in grado di farlo, eh? Cioè, ci deve essere un socio privato, perché il pubblico non può finanziare se stesso. Quindi non può essere al 100% pubblico. Ma noi chiediamo che sì, ci sia un socio privato, ma che abbia un piano industriale che ancora non c'è stato presentato, perché non c'è stato presentato. E questa è la tragedia. Quando al Ministero, all'interno del Ministero, dove purtroppo siamo andati tante volte, ormai 30-40 volte, siamo purtroppo e per fortuna di casa, quando ci viene detto ma avete, erano dietro di noi il nuovo possibile, uno dei tre possibili acquirenti, si chiama Civitillo, gruppo Serie Industrial, era dietro di noi, ci ha detto, gli abbiamo detto non ha neanche un piano industriale, non sa neanche forse dov'è Bologna, ci ha detto il piano industriale ve lo facciamo in 5 minuti. Voi capite che un soggetto industriale che dichiara di fare un piano industriale in così poco tempo, cioè in 5 minuti, tra l'altro notizia di oggi che mi ha girato Mario, si doveva essere una riunione al Ministero, alla... il Ministero è stato, perché gli piace far così a quei soggetti di quella parte, diciamo, di destra, ha rinominato il Ministero dello Sviluppo Economico, l'ha rinominato MIMIT, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, questa cosa è meravigliosa, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, cioè di ciò che viene fatto in Italia. Poi i nostri, i prodotti vengono fatti in Polonia, ok, dove costa meno il costo della vita, ma in Germania e in Francia, ok, quindi un bene collettivo. Mi piace molto il ragionamento anche che si diceva che noi, guardate, non per tirare l'acqua al nostro mulino, perché tutto è importante, qualsiasi azienda, io ho partecipato, mi ricordo la saga, Saeco, Marelli, Magneti Marelli con Mimmo, tutte, ma noi produciamo un mezzo che effettivamente è utilizzato dalle fasce medio-basse e che muove decine e decine e decine di persone. Noi facciamo bus elettrici, 12 metri di bus elettrico già collaudato, già venduto, a Milano è anche piaciuto, facciamo mezzi a pantografo diretto, a pantografo inverso, cioè le batterie si ricaricano tramite una struttura che sale o un'altra che scende, e quindi siamo in grado di fare non soltanto mezzi a gasolio, diesel, no? Cioè siamo in grado di fare mezzi elettrici. Io quindi vi ho rappresentato la nostra situazione, che va molto a braccetto con la relazione di Gianluca, con il concetto di giustizia climatica dei Fridays for Future. Quindi vi ringrazio a tutti e grazie mille. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was out. I was dancing when I was out. I danced myself right out the womb. Dance myself right out the womb. Is it strange to dance so soon? I dance myself right out the womb. I was dancing when I was 8. I was dancing when I was 8. Strength to dance so late. Is it strength to dance so late? Strange to dance so soon. I dance myself into the tune. Is it too wrong to understand the fear that dwells inside a man? What's it like to be alone? I like a need to overload. Eccoci di nuovo qui, avete ascoltato questo pezzo bellissimo di T-Rex. Ricordo a tutti, se volete sapere e avere notizie della musica che noi mettiamo, andateci a cercare nella nostra pagina podcast Facebook Il Pane e le Rose. Troverete là tutti i riferimenti musicali della nuova linea musicale del Pane e le Rose. Abbiamo cambiato un po' musica, abbiamo cambiato genere, ci piace cambiare a noi ogni tanto. Avete ascoltato prima di questa bellissima canzone Delegato della Fiamma Muzzicato, che ci ha raccontato di quello che sta accadendo alla Breda Melarini. Io vorrei parlarvi di quello che lui ha anche accennato nell'intervista. Andate ad ascoltare l'intervista, chi l'ha persa e si è solamente collegato adesso a Radio Città Fucico, pagina podcast Il Pane delle Rose, Facebook la trovate, cercatela, lì trovate le puntate, ok? Anche tutte le puntate anche arretrate. Bellissimo è stato questo lavoro di questo ricercatore Gianluca Sala, che abbiamo ascoltato prima dell'intervento di Muzzicato. Io l'ho anche registrato, però non so se farò una puntata su di lui, però io ne volevo già parlare con voi, perché io penso che lui abbia colto la questione. Ha fatto un'analisi molto corretta dicendo: in Italia oggi c'è un problema enorme di emissioni di CO2 dovute al traffico, soprattutto delle auto, dunque teoricamente servirebbero più autobus. L'autobus riduce il traffico, se la gente prende gli autobus non prende i mezzi privati, e questo fa sì che il traffico ce n'è di meno. Dunque servirebbero più autobus in Italia. Nel 1980 in Italia si producevano 7.000 autobus, nel 2022 sono prodotti 271, cioè un calo enorme. In Italia se ne immatricolano 3.000 autobus all'anno. Questo significa che 2.800 autobus, visto che altri una settantina vengono venduti all'estero, 200 autobus sono fatti in Italia e 2.800 vengono importati da paesi come Germania, Francia, Turchia, e quelli elettrici li importiamo dalla Polonia e dall'Olanda, dunque non è che li importiamo dalla Cina o dall'India, e perdiamo ogni anno 400 milioni di euro che diamo a questi paesi. I maggiori produttori di autobus oggi c'è Iveco, che però comunque esporta, poi c'è Rampini che fa piccoli autobus, ma l'unico che è realmente rimasto di autobus che fa gli autobus per l'Italia è la Breda Melarini e la sua filiale ad Avellino. Insomma, questo cosa ci fa capire? Ci fa capire che oggi noi abbiamo bisogno di autobus, ma non vogliamo produrre. No, l'Italia ha scelto di non produrre autobus in Italia e di dare 400 milioni di euro fuori, e non ne sta cambiando. È anche oggi che, come diceva Muzzicato, che c'è il Made in Italy, no? Che la Meloni, la sovranista finta, falsa, svendipatria, la possiamo veramente chiamare una svendipatria visto quello che è successo al G7, che poi non spetta a me parlarne, ma poi ne parleremo in una puntata quando sarà l'occasione. Questa svendipate della Meloni continua a non investire su quello che serve all'Italia. Ma basterebbe oggi, fatto dei calcoli da questo professore insieme alla sua equipe, noi passassimo da 270 autobus a 1.000 autobus prodotti, che avremo 1.000 posti di lavoro nel mondo degli autobus e 4.000 persone nel trasporto pubblico e 15.000 posti di lavoro in generale su tutto l'indotto. Basterebbe solo di passare da 270 a 1.000, cioè un terzo di quello che ci servirebbe. Basterebbe far questo. E i soldi ci sono soldi proprio del PNRR che sono per il bisogno di produrre tutto quello che serve alla transizione ecologica, proprio del trasporto. I soldi ci sarebbero, e ci sarebbero anche di più. E ci sarebbero anche le aziende che sono comunque sotto lo Stato, sotto Invitalia e Finmeccanica, che è Breda Melarini. E purtroppo non viene fatto. Questa è una scelta politica che ormai sono anni che è stata presa, perché alcuni settori devono essere abbandonati e bisogna ricorrere all'estero. Bisogna comprare gli autobus all'estero. C'è una volontà politica di smantellare l'industria tutto quello che ci serve in Italia, a favore di industrie dell'estero. E questo loro lo chiamano sovranismo. Ci prendono anche per il culo. Oggi il problema qual è? Il problema è che questo progetto è fondamentale, necessario. Noi dovremmo produrre 3.000 autobus, quelli che ci servono. Prima noi esportavamo autobus, oggi li importiamo. E oggi facciamo gli autobus tra i migliori, lo diceva Muzzicato. Autobus elettrici di 12 metri, sono i migliori e anche molto apprezzati. Però non c'è la volontà politica. Ci sono al governo ormai delle persone che non fanno gli interessi dei lavoratori metalmeccanici, dei lavoratori in genere italiani. Questo è un dato di fatto, che purtroppo non riusciamo a risolverlo. Servirebbe veramente un cambio politico radicale di chi ci governa. Dovremmo andare noi al potere, perché questi progetti purtroppo poi non vengono realizzati. Non vengono. Abbiamo visto nelle puntate che sì, la saga Coffi, che va al cuore, la Magneti Marelli. L'unica fortuna che può capitare ai lavoratori è che vengono acquistati da imprenditori che vogliono continuare la produzione. Oggi invece situazioni come la GKN, come la Beta Menarini avrebbero bisogno di altro. Avrebbero bisogno di uno Stato che deve fare i suoi interessi e dei lavoratori. È quello che serve veramente alla società. In maniera ecologica, pulita e produttiva. E salvaguardare le famiglie dei lavoratori italiani. Questo non viene fatto. Serve una rivoluzione. Abbiamo bisogno di una rivoluzione vera e propria, perché non possiamo affidarci agli imprenditori. Perché alcune volte può andare bene, abbiamo visto, bisogna ancora vedere se andrà bene, come crea qualcosa la saga Coffi, ma spesso non va. Arrivano questi cavalieri bianchi, oppure c'è questo Stato, come anche Film Meccanica, che si disimpegna, preferisce fare armi che autobus. Questo è il problema. Forse se facessero i carri armati, oggi la Beta Menarini sarebbe stata salvata. Anzi, avrebbero investito e avrebbero utilizzato quei soldi che sono stati messi per l'ecologia e per le armi. Questa è la realtà di oggi, che è triste. Ecco, io vi lascio con questo messaggio, sperando che le cose cambino e si possa tornare di nuovo a costruire quello che ci serve in maniera ecologica e produttiva. Al prossimo. Orgoglioso de estar, orgoglioso de estar, entre el proletariado, es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan.